fugida, fugida, fugida, fugida, fugida, fugida, fugida, fugida, fugida, fugida, no po fugge, ma pi fuggione. Mando cazzi, noi siamo un milione, come i cinesi siamo dappertutto. Da Palermo a Bolzano, da Londra a Beirut, siamo l'erba cattiva, quella che non muore. Ci pitro a New York e pure a Singapore, siamo vicini da casa che faccio casino. Ci trovo a casa a Parigi, Tokyo e Berlino. Oggi come oggi tutti hanno un amico da fuggire, che cercano appoggio, che cercano alloggio, sempre tutta scrocca. In vita sopra a spiaggia di Miami a Venue Coc, o sotto abbraccia un sheik che vanno a mignot. E chi se ne fotte se gira tutta notte a sfotti guaglione parlando a maracana, mentre da macchina suona musica napoletana. Fugge da fuggi se tu vuoi coraggio, ma facci d'attenzione a certi personaggi. Come da vuota vuota tu mondo funziona, come da mitta mitta tu un pulama. Fugge da fuggi se tu vuoi coraggio, ma facci d'attenzione a certi personaggi. Come da vuota vuota tu mondo funziona, come da mitta mitta tu un pulama. O venerdì o mercato o sabato e giardina, a domenico o stadio, Pino Zaccaria. O fogge in un squadrone chi non zombe in un barese. Acqua se te revannanza per campà mese dopo mese. Perché ho lavoro a fogge manca a chi l'ha vista. E se mi mancano qui urno se per scritto Gesù Cristo. Ricchietelle da mamma e qualche altra infurnata. A pasto furna sette da madonna ingurnata. O panina da paponi, scagliuzza via lucera. Una partita o pallone o giocato sotto zero. I turcinine da fostine, mamma che macella. E poi finì a serata tutto quanto in da palestra di Forgella. E se tornassi a rete ci mettessi a firma. Veniamo da l'estra scritta in altro film. Papusa è fatta tardi, mo picchia e taglia curta. E va a fa mocca a chi ve multa. Fugge da fuggi se tu vuoi coraggio, ma facci d'attenzione a certi personaggi. Come da vuota vuota tu mondo funziona, come da mitta mitta tu un pulama. Fugge da fuggi se tu vuoi coraggio, ma facci d'attenzione a certi personaggi. Come da vuota vuota tu mondo funziona, come da mitta mitta tu un pulama. Fugida, fugida, fugida, fugida.